Sì. Eia, non si intende anche. Eia, si intende sì. Ma di Zichistano ti fate temporale, vero? Diciamo domani piove, ma non è eccessivo come c'è per dove la Galluna, lì c'è una letta meteo. Da stanotte, diciamo, il grosso domani mattina. Ah, sta bello il rompimento di scatole. Domani piove tutto il giorno, purtroppo il lavoro tuo devi uscire a consegnare, ti devi forse bagnare. Ormai c'è caldo, se no mi metto il giubbottino quello grande. Ma per caso. Ok, già lo so, no, ma sono stati gradi c'erano poco fa, le 8 e qualcosa, c'erano 28 gradi. Lo so, c'erano 28 gradi, c'ho il giubbottino, c'ho quello tutto intero, ma poi cazzo mi appone il michizio, cazzo mi scioglie il capo, è un casino, eh. Ok, già lo so, purtroppo adesso qualche scritto di acqua te lo riprende domani, però è una cosa di buone, senza nulla, se no ti fa la luccia. Faccio un ghiwi, marasucci. Qualcosa di leggero magari mette, ma basta molte volte un cappellino per proteggerti la testa, poi addosso magari un giubbottino leggero. Scappa, mi bisogna manucciovarla, mi bisogna. Avevo il cappellino, guarda, d'inverno quando inizia il freddo, diciamo, i primi freddi, il cappellino ce l'ho sempre. Mi tappa un freddo, non so quanto è un freddo rimettuglia, perché noi in officina sono sempre l'aria aperta, entri, ci entri, non ce l'abbiamo riscaldamento, però mi protegge il coso, la testa. Scappa. Ah, dice che alcune officine molto grosse, cioè alcune officine dice che hanno anche riscaldamento, vero? Certo, quando vai in officina a Sassari non lo so se c'è qualcuna, però se vai in impianti un po' importanti già ce l'hanno riscaldamento. In cabina di verniciatura al forno già vero un braccio. Ma è voluto di Dio, ma non stanno, ma stanno ancora facendo cotte, cioè col forno? No, ormai ci sono le vernici a coso, catalizzate, prima 40 anni, anche di più, 45 anni fa, non c'erano i catalizzatori, c'erano vernici sintetiche per farle asciugare, dovevo utilizzare il forno perché era 80 gradi, doveva arrivare per fare l'essiccazione, se no non si cava. Poi hanno inventato i catalizzatori, per cui asciugavano anche ad aria. Poi adesso ci sono le lampade a raggi infrarossi, da tantissimi anni le lampade a raggi infrarossi che accelerano velocissimamente le essiccazioni. Poi ci sono i catalizzatori ultra rapidi, dopo mezz'ora è già asciutto. Infatti dicono che non ne mettono neanche più nel forno, cioè non in nulla, ma è qualche macchina vecchia, può essere, non ne pone ne più 30 ruvoro. Dice che asciugano così anche al sole, vero? No, il discorso è questo qua, ormai il solvente, la vernice a solvente è fuori legge, non si può più utilizzare la vernice ad acqua. Il sistema più efficace per farlo asciugare è la lampada a raggi infrarossi, per cui l'essiccazione è come il sole, dai. Oppure ci vuole una ventilazione forte, senza niente, senza calore, che faccia evaporare l'acqua, perché ormai devi fare in modo di evaporare l'acqua. Il solvente invece era diverso. Con questa invece c'è una grande ventilazione, infatti sono tutte le cabine di verniciatura, ormai i forni non è trattenibile, ma anche andando in zone dove c'è un po' di freddo, ma da noi il freddo non è che ce ne sia più di tanto, ma le alza la temperatura a 22-23 gradi, però non c'è più bisogno dell'essiccazione per utilizzare il forno, cioè non c'è bisogno del forno per l'essiccazione. Io così, sono di nato di paimiate burro di corrente, ma chissà cosa dirame. Infatti la maggior parte sono tutti a gasolio o a kerosene questi impianti di essiccazione, se no guai, qualcuno ce l'ha a gas, ma qua ormai non ne sta più utilizzando nessuno, ormai usano, ti scaldano un po' l'ambiente, quando c'è freddo d'inverno e basta, però solo per scaldare l'ambiente, non per essiccare, è importante avere una bella ventilazione, quella sì. Ho capito, ma voi ce l'avete ancora? Certo, noi abbiamo due, noi siamo stati i primi che abbiamo avuto la Sassari provincia, fatta la Fiat, non ce l'aveva nessuno, solo noi l'abbiamo avuto negli anni 70, i primi. Meglio così. Alcune le portavano a voi, così. Prima se dovevi lavorare, noi eravamo Fiat, le facevamo solo noi, non le faceva nessuno. La vernice per essiccare dovevi utilizzare per forza il forno, se no se volevi avere il lavoro ben fatto, se no la dovevi lasciare ad aria, ma d'inverno rimaneva sempre morbida, non seccava mai. Poi sono uscite le vernici acriliche con catalizzatori, per cui è cambiato tutto, oppure verniciavano la nitro, ai tempi quando ero bambino io si vende c'è la parecchia la nitro. Oh, mi avviaggio. Ma che epoca, fino agli anni 60 erano tutte verniciate alla nitro, poi sono uscite le vernici a forno, diciamo, gli smalti al forno, parliamo le case costruttrici, ma tutte le macchine sino alla 600, sino agli anni 60, erano tutte alla nitro. Allora erano così, erano. Poi c'era un'altra officina grossa a Sassari, che forse il forno ce l'aveva, forse. Quelli che c'erano via Marghinotti. No, poi l'hanno messo tutti il forno, nel giro di 10 anni ce l'avevano tutti, se no non potevi lavorare. Ma diciamo, stiamo parlando anni 70, io avevo 6-7 anni quando l'abbiamo messo, nel 1970. Vai, tu già una di. Ce l'aveva solo la Fiat. E poi quello della Fiat l'avevamo preso noi dopo qualche anno, quando loro l'hanno cambiato l'abbiamo preso noi l'altra cabina. Ma sicuramente le portavano, cioè. Allora le travagliamo aver tutte da voi. Io credo, noi facevamo anche radiatori, facevamo tutto qua. Si faceva tutto, dai, erano altri tempi, poi non c'erano problemi come adesso di ecologia, devi stare attento, se metti un barattolo fuori, guai, ti arricciano. Prima invece si lavava in altri modi, si usava, carteggiava l'acqua, per cui era tutto diverso. Poi dagli anni 80 hanno iniziato tutti i controlli, per cui devi utilizzare tutto a secco, devi levigare a secco, le polveri la devi conservare, e i solventi già da quando era dal 2000 che non si può, 2003 mi sembra, non si possono usare prodotti al solvente, le vernici, a meno che non usi solo i trasparenti e i fondi sono permessi di utilizzare al solvente, però le verniciature, a meno che non siano macchina d'epoca, non le puoi utilizzare al solvente, solo ad acqua. Lo so, però se uno li capita la macchina d'epoca cosa fa? Non la batte, certo che la fa. Sì, vabbè, ma non ti capita tutti i giorni, se vuoi rispettare il colore dell'epoca che rimane un po' qua acidrato, dai, non è bello lucido come adesso, perché ormai le macchine di adesso sono tutte col trasparente, sono tutte verniciate già da almeno 10 anni, sono tutte verniciate ad acqua e hanno tutto il trasparente, mentre prima erano gli acrilici normali a lucido diretto, a parte il nero e qualche rosso che avevano il trasparente, ormai tutto, anche il bianco è il colore più meno assorbimento, che dà meno assorbimento di calore, anche quello ormai sono tutti col trasparente, perché la vernice d'acqua senza trasparente non tiene. Lo so. Purtroppo è così, ma adesso ci sono altri metodi, cavolo, migliore. Prima le macchine però ci mancivano molto di più, Già dubbio, prima erano lamiere ferrose, chiamiamo, adesso sono tutte zincate, dagli anni 90 sono tutte zincate. Non ho detto, non c'è Fabrizio l'altro giorno a te a prendere la bomba? No, lo so, non c'ero. Perché, ma dove c'è uno della bomba? Vai, Antonio, ho detto, già vicino, perché stava arrivando nella tua casa, lo conosci di faccia Fabrizio? Non credo, no, io pensavo che non vi conoscevate. Forse io ero fuori. La settimana scorsa. Mentre non sono presente a quello dell'altra volta, l'altro Fabrizio che mi conosce, non riesco a ricordarmi il personale. Dice, no, anche noi ci siamo seduti a bere insieme. Ho detto, già lo conoscerai. Ha detto lui, poi magari se lo vedo lo conosco, però di nome non mi dice giù al mare, a Platamona, non lo so, c'ha belle attrezzature comunque, allora stava parlando bella roba. Penso di tanto. Mica ti ho mandato una cosa. Aspetta che ascolto. Allora, il cognome ne conosco un bel di quella famiglia lì, sarà sicuramente parente, non lo so, sono diversi, a Sassari ci sono solo loro, però non lo so. Guarda, c'aveva il camion delle bombole. Cosa c'ha? Ci avevano il camion delle bombole. Il camion delle bombole? Eia! Ma di che bombole? Le bombole di gas, quelle che hai portato tu? Eia, la gara che non riconosci a Sassari. No, io le conosco tante di famiglie, di quella famiglia lì, non so se sia parente, è un bel, molto bene, amici, tra l'altro la moglie di quel cognome che hai detto tu, sei parente, il marito Buonanima Turicino ha lavorato 25 anni da noi, è morto, ma siamo da sempre, ci conosciamo tutta la famiglia, fratelli, cugini, cognati, per cui sicuramente la conosco. Magari la gente che si chiama Ottoni, Christian, eccetera, eccetera. Chiaramente non lo so, non lo so, devi chiederlo a lui. Però chiaro come mica è basso, magro. Andava col padre, adesso il padre è morto, c'erano le bombole, il camion, che autotrasportatore era. Ma di quella famiglia ne conosco un bel di gente, ma una decina, anche cognati conosco, eccetera, eccetera. Perché, ti ripeto, il cognato di uno di quella famiglia, cioè la moglie di uno di. Che si con quel cognome lì era la moglie di questo che era in officina, poi conosco tutti. Non penso ce ne siano molti con quel cognome a Sassa. Sì, Roberto già lo conosci, sempre a Plattamola stava con la bici. E allora già lo conosci, lui mi ha detto che infatti stava, ci avevamo avuto un po' di volte a Plattamola. Penso di sì, io stavo sempre lì del tratto. Sempre lì. Aspetta se c'è qualcuno, mi sembra c'è qualcuno, avanti che vuole entrare. Forse è propagazione, buf. Cappa. Perché non vai su qui, così non te l'abbia fatto vedere. Vabbè, già capiterà, dai. Ok, e cosa è entrato stasera? C'è qualcuno? No, quando c'ero io no. Niente. C'è tutto un movimento che si è alzato lì su questo. Un edificio. E chi c'era? È entrato qualcuno? No, è la verità, non è. Io quando da quando sono qua non è entrato nessuno. Ah, così. Vedi, qualcuno è entrato un paio di minuti, ma un po' cagliare. Adesso se sento qualcosa, Riccardino lì, come devi mettersi in là. Deve essere infatti, l'ho fatto con tu, ragazzino, te ne curi. Eia. No, già. Era tolgo. Già tranquillo. Mettiamo un po' di allegria, dai. Poi sono tu da vivo, l'hai conosciuto a Riccardo? No, di persona no, ma l'ho visto una volta, l'ho visto. So chi è. Ma l'ho visto così di sfuggita. No, è venuto qualche volta in officina col babbo. Il babbo poi già lo conoscevo di vista, che sta vicino, lavora vicino dove lavoro io. E poi l'ha portato a Riccardo, ma adesso era timido di poi. Siamo diventati amici, diciamo, gli ho fatto quasi da padrino, dai. Sono stato uno di quelli all'inizio che la fa detta, entra, dai, gli ha entrato la voglia anche lui, e dai, ci manca un pochettino, a me ne manca. Lo so. L'ho visto una volta, chi si macchinò nei manni, l'ho visto, e c'è la macchina del padre, c'è la mamma giovane. Allora, ne avevano due di quei fuoristrada grossi, uno l'hanno venduto, gli è rimasto l'altro dove attaccano quella specie di rulotto che è una specie di cellula, dai, non è proprio una rulotto, che diventa un camper enorme. E poi c'hanno adesso un'altra macchina americana, una Cadillac piccolina, c'hanno, e poi cosa vanno? L'altra c'era venduta perché se l'ha sbattuto, l'ha data via. Due li hanno dato via. Capa, ti stavo dicendo, ma la madre è una signora giovane. C'ha i capelli corti, bionda, e si assomiglia molto al figlio, molto molto uguale a voi. Sì, diciamo abbastanza giovane, ma ci avrà, io penso, 48-50 anni, dai. Capa, mi sa che l'ho visto, una volta con la madre l'ho visto, capito? Sì, può darsi, molte volte può darsi, lo andava a prendere a scuola, non lo so. Io a lui la mattina sola vedo tutti i giorni perché lavora vicino a me, tu passa dietro, l'ho già visto che c'è vicino, io l'altra via passa e vedi una macchina americana e quella lì è la sua. Lo so, con della barcheggia ci passo sempre lì. Sì, e poi adesso l'hai ripreso la mattina pure tu. Cappa più pesante la storia. Magari lo conosce pure Rubabbo, chissà quante volte ci siamo visti. Sì, allora faccia conosciuto a Sassa, e poi col lavoro che faceva prima, adesso lavoro in ufficio, ma prima con l'altro lavoro lo notavi sicuramente di più. Sì, ma sicuramente chissà quante volte l'abbiamo visto. Che sono tutti in gamba, no? Io sono andato anche a casa sua, no? Conosco anche la sorellina, la mamma, tutti in gamba, brava gente. Gamba. Ha fatto tanto, poverino, si è messo anche un'antenna come Dio comanda. cose le ho fatte prendere io, mi chiedeva anche consigli, cosa faccio qua, là, diciamo, si fidava un po', ma mi è dispiaciuto un pochettino, l'hanno anche un po' incolpato, che era lui, metteva la porta, invece non c'entra niente, si è sbagliato, non è anche se sembrava la direzione quella lì, ma non era lui assolutamente. Asini grandi, purtroppo tante cose brutte, dai, dimentichiamo il passato. Infatti ho detto qualunque cosa sia successo, quando vabbè, il padre l'aveva bloccato perché stava andando male a scuola, doveva prendersi la terza media, adesso è le superiori, magari qualche volta già dovrebbe entrare, ogni tanto ci sentiamo per messaggio, mi telefono, adesso vabbè, diciamo da un po' che non lo sento, prima delle tratte ci siamo sentiti, era passato poi quando doveva fare gli esami, perché in terza media si facevano gli esami a giugno mi sembra, era venuto, stava andando a dare l'esame, ma è Toghino, è simpatico, dai. Deve crescere ancora, dai, ma piano piano già verrà che diventerà più grande e potrà usare la radio. Sì, già lo so, diciamo è cresciuto un po' troppo in fretta, perché c'erano ambienti di adulti, magari, e quello lì poteva essere magari un po', però diciamo, piano piano, come tutte le cose, era molto appassionato, e adesso non so se gli è rimasta la passione, però sicuramente sì. Ok, lasciamo un attimo il bianco, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, se no riprendi tu. Avanti sul 10 chi vuole entrare. Vai, vai. CTV di va più radio Edu che io. Tu non ce l'ha mica, sto scherzando, ne aveva tante tante di radio. Scappa. Cioè, va via più roba Edu che io. Cioè, vabbè, non ho spazio, quindi non posso mettere più di tanto. Sì, un giorno già ti faccio vedere la mia stazione, direi qualcosa. Purtroppo la casa è quella che è. Ci abbiamo un drogo in occhi. Già ti farò vedere, quando capita tu mi darai un giudizio. Capa, senti troppo io. C'è un sottotetto. E no, che diciamo che la camera da letto è in legno, capito? Io capito, no, grazie a Dio, io ce l'ho una stanza dedicata, la casa mia è grande, solo per queste robe qua, c'è una stanza con tanti ripiani e ci sono tante radio, non le metto neanche tutte, ho messo quelle che utilizzo, però ce ne sono tantissime. Sì, andate che puoi, io purtroppo lo spazio è quello che è, anzi, meno male che abbiamo questo qua che almeno posso mettere qualcosa, se non avevamo tu Gizzo era stato proprio spacciato, dobbiamo un'inuta e c'è a casa, è minore. Le cose si fanno piano piano, poi quando sarà ci avrà una casa un po' più grande con tutte le cose che deve avere e anche gli spazi dedicati ai divertimenti, piano piano, ognuno fa quello che riesce a fare. Non so. Io dico, pensare sempre che c'è qualcuno che sta peggio di te, per dirti quando uno dice non mi sento tanto bene, pensa chi ci va a ripidare, così uno dice che ho la casa troppo piccola e pensa a quelli che vivono sotto i punti, per cui c'è sempre qualcuno che sta peggio di te, c'è molta gente che sta meglio di noi, quello è normale, però non sono invidioso di nessuno, a me mi basta quello che c'ho io e boh, non me ne ha fatti nulla lei di quello che c'ha la villa a Porto Rotondo o lo yacht da 50 metri. No, già va bene così, già c'è ragione. Vabbè, se è stata più umana, è stata meglio, ma già ci accontentiamo lo stesso. Sì, ci abbiamo tutti gli spazi, tutti gli angoli misurati e già cambiamo lo stesso. Ascolta, ti volevo chiedere una cosa, A me mi ha detto chi sono di rigassi che non le posso dare niente. Io ho delle casse in ABS, che c'è qualche graffio, qualche cosa, ma cosa rimborso da? Cosa li dà? Tanto quelle un'altra volta li veniciano in antirrombo. Gli c'è antirrombo. Antirrombo dovrebbero vendere anche a buon momento, ma perché se sono graffio, purtroppo sono casse per uso esterno, uso gravoso, si buone roba in alto, non sono rifinite, ma sono graffi molto profondi. Un po' di graffi c'ha. Ma hanno tolto il colore? No, vabbè, io volevo dargli, mi ha detto che con una carta è, quindi devo dargli anche su questo antirombo. Sì, certo, nera era a casa. Ma una domanda, i graffi hanno inciso, per dire, la parte ruvida, sotto si vede il legno, il bianco, si vede qualcosa? Non è il legno, è un ABS. Vabbè, quello che è, il materiale è quello. Si vede di diverso colore dove c'è il graffio? No. Allora, se tu non si vede molto il graffio, prendi bomboletta nera, ti tappi bene l'altoparlante, ma c'è cosa, e dai, tutta una mano di nero, ed esce un perfetto lavoro. E questo me l'ha detto anche gente, che però il tecnico mi diceva, guarda, dopo un po' di tempo ne esce. Naturalmente lo devi sgrassare bene, tanto tutte le cose, si graffi, anche la macchina si graffi in lisci, è normale. Con l'antirrombo c'è quello antisasso, si chiama, è abbastanza elastico, quando prendi i colpi assorbe un pochettino i colpi. Certo, se ci vai col cacciavite, anche quello lo incide. Mi è già mandato il graffio che c'è, poi ce ne sono in giro, ce ne sono altri. Però lo vedi che è di diverso colore. E come cavolo si fa? Per una un leggera carta, cosa devo fare? C'è chi sa carta vetrata, leggera. No, assolutamente no. Questo, se tu vuoi renderlo tutto uniforme, prendi la bomboletta da lontano, lì è tipo sfumatura, proprio una volatura leggera, vedi? Però devi fare tutta uniforme su tutta la cassa, non solo lì, se no si vede la macchia. Ciao. Sì, devo farlo sì così, che vivo che c'ho, devo comprare questo antirombo, ma quello corso ce l'avrà questa storia? Ma non c'è bisogno tanto dell'antirombo, che appena chissà cosa che si vede. Io avrei preso la bomboletta da lontano, la sfumatura, allungandoglielo, tipo gli dà una velatura, e vedi come esce, se è troppo male lì, si mette questo antirombo, però l'antirombo lo vedono anche a bomboletta, ma bisogna stare attenti dando, se no ti esce troppo agrumi, troppo grosso, bisogna fare in modo che non sia troppo riempito. Ho capito. Ma perché cavolo? Cioè, l'hanno arruinato, cioè, ma ce ne sono anche altri, sotto c'è un pochettino più. Ce ne sono anche altri di graffi. Cazzo, quando li ho presi, cazzo, che li ho guardati bene, va via già di fumo a capo, va via. Perché io sono di quelli perfettini, se tu vedi le auto. Quelle che ho qua sono nuove. Vabbè, Anto, quando è una cosa esterna, se non è niente, l'importante è che sia tutto a posto dai componenti. Quello lì è plastica, ABS, cosa vuoi pretendere? La plastica non è come l'acciaio, un po' si incide, graffi, e tipo i parauti dalle macchine, una cosa del genere, li fanno con l'effetto zingrinato, eccetera, li fanno questa lavorazione così, li rendono opache in modo che se c'è qualche piccolo graffio non si veda. Ma di sistemare con la bomboletta spray, piano piano ti metti leggero a velatura senza caricare, perché se carichi esce una cagata, ma proprio velando, tipo quando spruzzi quella di bussù, gli ditti da un po' da lontano senza avvicinarti troppo, magari fai la prova su un pezzo di legno, su un pezzo di giornale, vedi, così ti prendi la mano, lo fai e gli dai una sfumatura e vedi che il lavoro viene bene. C'è da dire, sulla BS non hai l'aderenza che puoi avere sul metallo, teoricamente ci vorrebbe dei primer aggrappati, ma a te non ti ha fatti nulla, se ti invece ne dovrà dare un'altra mano, cosa succede? Mi hanno detto che nero opaco ci va. Nero opaco, ma moletta di nero opaco. Scappa, lo proverò prima o poi. Che sono perfettino che gli ho cambiato anche i colori perché non metto difettosi i Canon dietro. Già mi ha detto, se no c'è anche un'altra possibilità di usare l'antirrombo. Ci sono per fare i paraurti, quando si graffiano i paraurti delle macchine, che sono quelli un po' porosi, c'è una bomboletta che ti dà questo effetto, come lo chiamano? Io li chiamo zingrinato, però c'è un altro nome particolare. Lo vendono anche la UPA, e dice, ce l'avete con le bombolette? E dico, non è le grigie, che devo riprendere un paraurti nero, gli dici, che ti danno quell'effetto ruvido lì, e ce l'hanno loro. Oppure lo vai direttamente, forse ti conviene dare direttamente quello, tanto è nero e ti tappa anche quei piccoli difetti. Gli darò quello, vedrò un po' appena che è. Ma restano così, restano, non mi interessa. Cappa. Cavolo, la zucca tocca, le dice. Ho 30 euro a casa, mi ha pigliato questo. Già me l'hai detto, tanto. Secondo me è tanto, però diciamo, si è fatto un bel lavoro. va bene. No, il lavoro l'ho fatto bene. Non è niente di complicato, Mianto. Se c'è un po' di manualità te lo facevi tu. Lo so, nel circuito stampato era, io non ne so buttucate che cose. Stavo pensando di darla a Gavino, ma poi, perché poi è andato in ferie e cosa, aggiunti così, ma stavano in neve, mia dia, meglio aggiustata. Gavino ha voglia, ce la mangia quello. Già lo so, già. Ah, uno qualunque, non c'ha bisogno di andare a cose, mica le ciambe di transistor o cose del genere, già è abbastanza semplice. Dai. Ok, aspetta un attimo, il bianco di nuovo, facciamo una chiamata su 10, se c'è qualcuno avanti che vuole entrare, se no riprendi tu, Anto. Avanti 10. Sicuramente non vedi niente che accuccia, solo che magari non vogliono entrare. Di nuovo a te, Anto. Capo, io vorrei dire a questi qua, il piccolo sasso, che mi sembrano in gamba. Certo che lo conosco, dice, ma no, lui l'hai portato. Eia. Geppo, aspetta, Super Geppo si chiamava, quello lì c'aveva il 440 ai tempi che furono, una delle radio, lui diceva che era la stazione radio più potente di Sassari. Non esageremmo. Giuseppe, non ti dico il cognome, Pippo lo chiamo. Uno c'ha il mio cognome, c'ha. Pippo c'ha il tuo cognome, l'altro si chiama tipo Raimondo, esattamente di Giamma, un nome Alfredo, un nome così va. Capa. Per essere potente va via anche il Gnarone. Lui diceva che aveva 1000 watt, poi le parole. Sono un po' che non lo vedo, no, veniva diverse volte, siccome era molto amico di mio cugino. Stava fatto questo laboratorio di lì dove è tutta la via, non diciamo particolari, e loro sono autorizzati dalla Yamaha, facevano un sacco di roba, si chiamava poi Registratoria Bobina, quello bravo è l'amico, il collega, il socio, che non mi ricordo il nome, cacchio, tipo Alfredo, un nome così, Arturo. Sono tutti e due, sono. Lavorano tutti e due insieme. Sì, ma quello che è proprio era tecnico appassionato era l'altro, poi lui magari ha imparato anche lui. Motociclista da una vita lui. Infatti, è sempre la moto parcheggiata, è americana. E ha avuto un anettato con moto piccolina, il Custom, lui l'ha fissato col Custom, con le moto lì, poi alla fine ci ha preso Larry Davidson. No, già. Lui ti ha chiesto 30 euro per ogni cassa. Un bel me. Anche per me è molto, certo, non è niente di complicato, però è una ditta seria, un professionista, lì lavorano ore, per dire, quando ci ho messo un'ora, 50 euro all'ora, 60 euro all'ora, ci ho messo mezz'ora e ti fanno fare 30 più 30, scusano così, certi laboratori quando fanno certe cose, non è come per dire, cioè dammi 10 euro, dammi 15 euro, lì lavorano a tempario. Dicevi guardi, ma come ti me la trattendi pure bene? Ho detto vabbè, non dico niente, se sei professionista va bene così, dai. Vabbè, dai, lasciamo perdere, dai. Tanto guarda che la roba funziona, magari si potrebbe trovare qualcosa di meno, ma l'importante è che vada bene. Io dico, è brutto pagare troppo se ti fanno poco, ma se ti paghi tanto e ti fanno un bel lavoro, pazienza, non ci perdi nulla. È brutto quando ti fanno un cattivo lavoro, per dire paghere, ma ti hai buttato i soldi, oppure hai pagato troppo poco e ti fanno una cagata, devi ripagare di nuovo. Se paghi troppo, al limite hai perso i soldi, però il lavoro è ben fatto. E poi a me i cicosi leni non mi piacevano niente, no, cioè, sono convinciato, non c'è niente da fare, io voglio le cose perfette. Certo, soprattutto su questo tipo di connessioni, perché se tu poi non gli dai l'inglese, vai a far farsi i contatti, bruci subito i Twitter. Non va bene, no, sia per Nacchi sia, perché se no la cosa non è fatta bene, mamma mia, poi a me mi piglia l'ansia, io le voglio perfette. Posso lasciarle lì senza usarle, ma nel caso quando li attacco devono funzionare bene. Certo, stai attento soprattutto alcuni, non lasciarli in pozzi umidi, metti in un posto asciutto, perché sennò te le rampi. No, qua già è tranquilla la cosa. Cosa? E le altre le hai vendute poi? No, c'ho tutto. Com'è che le hai prese due coppie? Ma le usi tutte insieme o a seconda del posto? Posso usarle anche tutte insieme, li attacco a a cascata. Sì, ma tu te l'hai preso perché questa è varia, un ambiente più grande ha bisogno più potenza. Dai. La riserva di potenza è sempre meglio averla che tirarli con l'amplificatore. Vabbè, ma io ancora non glielo tiro, voglio casse più potenti che già vanno bene. Per il momento vi lascio questo e poi vediamo. Volevo delle casse molto forti io, cioè tipo da 500 luna. Da quanto è il buffer? È grande. Cos'è, 15 pollici o più grande? 15 penso. 38 centimetri o da 30 o da 12? È grande questo, l'altro è più piccolo, questo è, penso che sia 30. E ma non beh. Beh, vabbè, le casse sono diverse a casa, però dove ascolto di qualità c'ho le casse su base del RC che hanno il buffer a 38 e tutta la compressione, sono dei bestioni della RCF come cassone, però la componentistica e tutto il grossover sono stati costruiti da zero. E poi c'ho queste casse norvegesi che sono alte, hanno 1,50 m, hanno due buffer da 32, sono enormi quelle, gigantesche, e ti posso dire che toccano anche quelle lì. Non credo che toccano io. Però se tu le confronti con le altre, con quelle che sono a due vie, che tutto il progetto me l'ha dato, me l'ha fatto coso Gianni, quello di Chiri, che è un maestro lui su queste cose, è eccellente. Tu le devi sentire soltanto, te le buttano dentro la casa, c'hanno dei bassi, c'hanno un'efficienza, una sensibilità da paura. Tu con 3-4 watt di amplificazione te ne scendi dentro la casa. Io c'avevo le Infinity, che se tu le senti le Infinity, delle casse spettacolari come qualità di coso, però cazzo devi darle potenza per farle andare. Questa invece con 5-10 watt te le butta dentro l'appartamento. Addirittura Anto, ti sorprendi, c'hanno più di 100 dB di efficienza, di sensibilità, e non so se sai cosa vuol dire 100 dB con un watt. Io ho l'amplificatore a 5 watt, quando arriva a 110 dB, 115 dB, stiamo parlando di pressione sonora assurda a livello di concerto con 5 watt. Secondo cosa fai devi utilizzare tale potenza? Io non sono amplificato le casse, sono passive, però ti sto dicendo, Dani Mattana è un bel di gente, questo qua, gente che ci vuole spaccare il coso. Quando fai un concerto, ce l'hai andato tu a un concerto di qualità, non parliamo di rumore, dove si sente bene, quei concerti che senti il basso che ti vibra tutto il coso, i minuti come si dicono, oppure ti arriva il colpo della cassa che senti questo c'è una cosa da paura. Sto dicendo, non perché per vantarmi, però ti posso dire quella componentistica XRCF sono da paura. Ma qualitativamente le fili ti erano migliori, più ascolto musica classica, tutta pulito il suo, però per farle suonare dovevi darle potenza. Questo ti ripeto, con 5 watt ti butta dentro la casa. Vabbè, cioè sono cose, logicamente mi pare che lui si abitua alla discoteca, sono cose fatte per quello. Sì, questa è la cassa e monitor da discoteca, la cassa stiamo parlando, c'aveva un buffer da 38 e un tweeter, non era compressione, quello che ho messo io è la compressione, che c'ha 103 dB o 105 dB di efficienza, di sensibilità, che è una cosa esagerata, ma tu se le senti non puoi alzare. Io con l'amplificatore lo Yamaha non sono mai arrivato oltre la metà, perché se no mi vengono, ti ripeto, una volta mi è capitato che hanno trafatto a mia sorella, che questa abita due palazzi lontano da me, ma c'è il concerto alla Torres e io ero con tutte le finestre chiuse e tutto dal caldo, ho provato a alzare un po', ecco subito mi hanno telefonato a vedere cosa c'era l'acquedotto. Beh, se le metti fuori quelle devono pompare, cioè giustamente sicuramente sono casse per mettere fuori robe. Se tu li metti fuori all'aperto, quelli lì, se tu li ne hai usato la metà, fuori ne usi ancora di più. Sì, te lo sto dicendo, è assurdo, cioè in casa non esiste, cioè io c'ho un ambiente, una, un, so, salone solo per fare la musica, per esempio, quasi 50 metri quadri, ma ti sto dicendo è spaventoso la potenza dell'evento. Poi dove mi voglio divertire, dove ho i giradischi per fare discoteca e cose del genere, mixare cose, c'ho delle due coppie di casse, vabbè, le Boston, quelle sono casse di altissima qualità, ma non le ho messe di più, c'ho queste Pioneer vecchie da 30 cm, ti posso dire anche quelle da 90 a forte, con un bel Marantz di vecchia generazione, cioè non sono da paura, ma non paragonabile a quell'altro impianto dove voglio ascoltare musica, ne metto di lì, di altissima qualità. Poi più posto c'hai e peggio è. È più pompa. È da ridere, ma io di casse ne ho anche diverse, c'ho anche casse tipo quelle che utilizzi tu per fare le serate, cose del genere. Allora facevamo le premiazioni giù dalla Toa, non so se le conosci, la sede professionale della che si chiama, non so se era della Pioneer o che cosa, o della Hitachi, era una sede professionale che usavano per esterno, anche quelle lì danno una forte. Te ricordi le casse della Martin? Ma le utilizzate ieri? O qualcuno, il mogo bumpava, e pompano tuttora. Certo, Martin aveva fatto la teoria della musica, la maggior parte dei gruppi musicali, dai Pink Floyd in su, tutti utilizzavano le Martin, però c'è da dire erano periodi, poi c'era un periodo che c'era la GBL che faceva razzia, poi c'erano le Pro Voice, le cose, adesso poi c'è questa Lana Ray, c'è la moda di utilizzare quelle lì, adesso stanno ritornando indietro le casse di una volta, quei cassoni grandi, c'è la, come cazzo si chiama? Non mi viene il nome, una marca nuova che costano centinaia di migliaia di euro, quelle amplificazioni lì sono da paura, hanno delle prestazioni con pochi watt e sparano potenze da paura, non tanto, non è tanto che conta la potenza, è la quantità di suono, l'efficienza sonora che conta, perché tu puoi avere 1000 watt però se le casse sono poco sensibili non fai nulla. Queste casse nuove che stanno tirando fuori, le avete, queste Lana Ray, sono spettacolari. E poi c'è un'altra azienda molto importante, la Meyer, sono americana, ma anche cavolo le, i sistemi LRE li fanno tante case, li fa la RCF, li fa la FBT, li fa la GBL, le fabbrica, tante case le fabbrica, ma sono spettacolari, sono. Sì, quello è stato il futuro, perché ogni casa aveva il suo amplificatore incorporato, erano in alto, era una sorgente molto limitata come dimensioni, cioè, però cacchio, sparavano potenza da paura, per dire, tu stavi nella direzione del palco e ascoltavi, non avevi, per dire, prima nei concerti, quando attaccavano nei concerti, ci sentivano a 2 chilometri di distanza, perché era tutto distribuito male il suono, adesso con queste qui, li usano dentro i palazzetti, e non senti, cioè tu ascolti perfettamente dentro di lì, dalla prima all'ultima fila, perché prima tu quando eri sotto il palco ti spaccavi i timpani e ti mettevi a 100 metri e non comprendi nulla, si sentivano tutti questi riverberi, questi echi, poi invece adesso con queste lanere sono altissime in alto e sono tutte indirizzate nelle giuste posizioni, se ti sposti per dire di 20 gradi non senti più niente, quelli che sono per dire fuori dal campo sonoro lì non senti niente, è come che non stai ascoltando niente, quello, la cosa di bello è quello che hanno inventato, molto concentrato, con poca potenza, non c'è bisogno di arrivare a potenze esorbitanti, però la qualità sonora è migliorata tantissimo. Non so, prima usavano i cosiddetti sistemi caricati a tromba. Certo, c'erano quei cassoni, io mi ricordo quando è venuto qua Edoardo Bennato, mi sono spaventato cosa c'aveva di amplificazione, lui c'aveva i Martin lo stesso, infatti io mi fermavo apposta a guardare, che le informazioni, sono sempre stato appassionato, e quando avevo quei cassoni era una cosa spaventosa, altri 10 metri di casse c'erano per 20 metri per l'altro, era la paura, quei caricamenti a tromba allucinanti. E adesso tutta quella cosa lì è inutile, c'aveva 25.000 watt di potenza, adesso magari le potenze bastano anche 3-4.000, 10.000 watt, però suonano il doppio di come suonavano prima. C'è quelli, allora c'è per esempio tu già li conosci, usava Audio Performance, usavano, te le ricordi? Sì, c'erano anche le Stage and Company, c'era un po' di tutto, era numero uno era in Sardegna, adesso vai, ce ne sono anche altri, ma prima era l'unico all'avanguardia in tutto, faceva anche concerti di certi livelli, no? Roba da biasta, faceva cose assolutamente grandi. Ah, perché certe discoteche quando andava a bussare, che aveva l'Eclipse, non so se le conosci, che era il numero uno come intensità sonora a parità di potenza, non c'è nato nessuno. Ce ne sono tante case buone, potenti, a proprio di tutto, beh. Però poi io c'ho questo, c'ho queste altre, sì, già suonano, però quando prendi un FBT è un'altra musica. E ormai diciamo, a parte qualche marchio che continua a produrre lui, io sto parlando, ormai tutta roba fatta in Cina, non che siano scadenti, assolutamente non lo posso dire, certo c'è anche roba scadente, c'è roba buonissima, però è grande commercio, roba commerciale adesso, per dire, tu dici mi serve un altro parlante da 38 con questa potenza, queste figlia glielo fanno, e quella marca lì per dire, si può chiamare RCF, FBT, Martin, eccetera eccetera, mentre prima la JBL produceva gli amplificatori, le casse, gli altoparlanti produceva lì, adesso se li fa costruire da altri, a parte la linea professionale, l'RCF, la SB, la Ciale, facciano tutti la componentistica, ormai sono poche al mondo le case che costruiscono da sole gli altoparlanti e li progettano, ma poche, la maggior parte se le fanno costruire su specifiche, e quello stesso altoparlante lo vedi montato su 10 casse diverse, magari accordato diversamente, filtrato in altro modo, però l'altoparlante è identico. Guarda, secondo me è l'unica, tra le uniche case che è rimasta cioè, con queste cose veramente, secondo me la FBT ancora. L'RCF dici che cosa arrivi dalla Cina, Sì, assolutamente, però l'RCF è un buon prodotto, non tutti chiamano troppo, anche la Ciale, un bel di gente schifa il marchio italiano, RCF e Ciale sono dei ottimi prodotti, sicuramente ci sono, nello specifico ci sono anche altoparlanti superiori, certo se confronti, però sono alti livelli, dai. FBT produce casse, però la componentistica non ne fa più lui da tanti anni, ma rimette altoparlante dalla Fostex, Electro Voice, Ciale, RCF, ormai ci sono quei marchi di lì e se li fanno su misura. L'FBT ha fatto la storia lo stesso della musica degli anni 70, tanti gruppi musicali amplificazioni FBT, sia amplificatori che diffusori acustici. No, l'FBT ancora io so che produce qua in Italia tutto. Sì, no, non sto dicendo quello, però è diverso da come poteva essere 40 anni fa. Ormai non costerebbe troppo costruire, certo c'hanno le linee particolari, professionali, super professionali che di lì magari fanno, progettano tutto, però ormai fanno su specifiche, costruisci un microfono parlante, tac, e glielo montano su. Non è più conveniente, sono pochissimo, ma proprio sulla punta delle dita, però costano migliaia e migliaia di euro le case che proprio producono loro. Infatti l'FBT, da comprare un FBT che ti costa un patrimonio, ti costa due volte tanto, ci sarà un motivo, però tu li senti suonare, sono una bestia. Sì, niente da dire, assolutamente. Poi la musica è, ognuno c'ha i gusti suoi, c'è qualcuno che tu gli dici di parli di un marchio, è una gaggata perché si è fissato con quell'altro marchio. Io sono iscritto a tantissimi gruppi di questi amatori della Caffè del Tarico, ma c'è gente che denigra dei marchi assolutamente di altissimo livello che hanno fatto la storia, ma che schifo, perché si sono fissati con quel marchio. È come quando tu senti Radio Amatore, uno è fissato con lo Iaesu e lì Kenwood lo fa pezzi, l'altro è fissato con lì come fa pezzi lo Iaesu, quello che c'ha Kenwood fa pezzi alla lì come così, è una questione di gusto, è come quando tu dici qual è il meglio, la Mercedes o la BMW o la Ferrari o la Porsche, c'è questione di gusti. Io dico la trasparenza deve ascoltare con le orecchie, per cui non devi essere troppo condizionato, e le casse sono la cosa fondamentale, è come l'antenna per il baracchino o quell'apparato o il trasmettitore, è la cosa fondamentale, da dove esce il suono, la gente è fissata molte volte così, però uno deve avere ascoltato ascoltato la musica dal vivo e poi fa il confronto, la stessa musica, e si rende conto la differenza, perché ascoltare dal vivo è tutta un'altra musica, quando va a sentire gli strumenti senza amplificazione, vuol dire se passa una banda musicale o un'orchestra, tu metti, non so se ti è mai capitato, ascoltalo dal vivo e trova l'impianto che sia in grado di riprodurlo, ci vogliono tanti di quei soldi che neanche ti immagini, e a parte che ci vuole un orecchio abituato. Già lo so, magari non lo so. Mico, ma Bennato dice che è un casino, perché se c'è un'orchestra devi travagliare sul paletto. C'è una bella orchestra. Bennato, io l'ho sempre detto, è il numero uno dei cantautori, come competenza e come qualità, come tutto. Numero uno, l'ho visto davvero, numero uno in tutto, sia come musicista che come compositore, eccetera, eccetera. Bravo, numero uno. Magari adesso è decaduto, quello ai tempi che furono, non ce n'era per nessuno, gli altri erano le scarpe vecchie, va, dei cantatori, uno si muove attivi delle fesserie ed è diventato cantautore, ma dove? E suona male la musica, non è tanto scrivere, perché come diceva qualcuno, Gianetto Ruzzetta, dice, a scrivere una canzone c'è buono chiunque, però componi la musica, tipo come faceva Morricone o gente del genere, cacchio, che a fare musica è facile, come si chiama, comporla però è difficile, allora tu con il computer, Morricone, se tu cerchi su internet e guardi con cosa faceva la musica, quello prendeva un rumore, una cosa, e faceva, quando ha fatto il film Il Mondo è molto cattivo, ho visto tutta la storia della colonna sonora, questo qua la stava spiegando, il rumore, lui registrava un rumore di un pezzo di legno che si rompeva, una foglia, un coso di vento, e componeva la musica da lì, ma quello è un professionista, no, ma intendi uno che intendi, a chi le lauro per fare, tempo che forte, l'altro come si chiama, i dati, vabbè lasciamo perdere, la musica è questione di gusto, sono musicisti se li lasci dire. Allora, quello che canta, tipo Bennato, altri cantanti, i nomadi, con tutta quella gente lì, sono veramente dei cantanti. Ma Gigi, ti spezzo le gambe, ti faccio, ti bozzo. Tutti quelli non sanno cantare, per me non sanno cantare, punto. Ma tu li hai visti i concerti? Guarda, il 90% dei concerti che hanno fatto a Sassari, a parte gli ultimi 15 anni, me li ho tutti visti, perché abitavo vicino, entravo, raramente a Giubbagallo, perché entravo, mi facevo entrare sempre. Ma tu se sentivi a Edoardo Bennato, Pino Daniele, Battiato, quella gente lì devi sentire parlare, De André, non questi 4-5 di cose. Quando li senti, senti lavorare, suonare a Bennato 4-5 strumenti diversi, o a Pino Daniele suonando la chitarra, quelli sono dei musicisti, oltre che essere dei poeti. Ma quando mi vai a dire qualcuno piace, a me non mi piace più da Vasco Rossi, questo è un poema, poeta di rossa, di poeta di dove, scrive tre fesserie, tutto sponsorizzato, tutta roba commerciale, la musica gliela compongo io, che cos'è, cantautore, ce l'ho detto un po' facile. Ma vabbè, Vasco Rossi ha la sua storia pure, la verità, ha cantato e ci ha avuto, la verità, non è una bugia, ci ha avuto musicisti con due palle così, soprattutto tutti i batteristi, tu vai, cerchi su internet e ci ha avuto batteristi di grandissima fama. C'è uno, ti dico, ha fatto dei pezzi con, non so se lo conosci, con la Uta, non so cosa rendo l'idea, ha fatto dei pezzi cazzo, con batteristi di questo qua, con una certa fama. Cioè, però, già lasciamo perdere Vasco Rossi, uno può anche non piacere, però la sua carriera ce l'ha avuta. Ma chi ci cagga a Vantarone, chi ci ne va, ti spezzo le gambe, di voto, di... Cioè, che cazzo canti? Cosa ci cantendi? Sì, hai detto bene. Vasco Rossi ha avuto tutti i migliori musicisti del mondo, a livello mondiale, i batteristi hanno suonato con tutti i più grandi cantanti del mondo, da Michael Jackson, eccetera, eccetera. No, qua stiamo parlando di un musicista, cioè Pino Daniele sapeva suona la chitarra, oltre che saper cantare. Ma parliamo di Edoardo Bennato, Angelo Branduardi, quella gente lì. Tu ci sei detto a Bennato suonare l'armonica, la chitarra, e qualche strumento, qualunque cosa gli dava in mano sapeva suonare, le tastiere. Sei un mostro in tutto, era una cosa fenomenale. Poi anche lui si è adattato con canzoni, canzoncine, le chiavi.